Eliside, le vergini. Pregavano per proteggere la città. Tra Giove, Venere e Cornelia, i Sanniti crearono la storia della porta dell'Oriente, ne fecero una città splendente, una perla sulla fronte del Mediterraneo emergente, un piede in mezzo al fuoco. Pompei l'ha sempre avuto, una terra fertile e lucente, un'apparenza benestante, un po' come noi oggi, che sembriamo tutti felici, ma sotto sotto siamo tutti schiavi di mille fuochi e mille braci. Il 24 agosto del 79 dopo Cristo, un'eruzione fece disastro. Non ci fu scampo quasi per nessuno. Rimasero di gesso le ombre scalfite sul fango. Tutte le orge, gli anelli, i braccialetti d'oro, tutti i profumi, gli specchi, l'alloro. Una perla sulla fronte del Mediterraneo emergente, un piede in mezzo al fuoco. Pompei l'ha sempre avuto, una terra fertile e lucente, un'apparenza benestante, un po' come noi oggi, che sembriamo tutti felici, ma sotto sotto siamo tutti schiavi di mille fuochi, di mille braci. Del Mediterraneo emergente, un piede in mezzo al fuoco. Pompei l'ha sempre avuto, una terra fertile e lucente, un'apparenza benestante, un po' come noi oggi, che sembriamo tutti felici, ma sotto sotto siamo tutti schiavi di mille fuochi, di mille braci.